Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È indiscutibile che Internet abbia cambiato le nostre vite, i nostri comportamenti, il nostro modo di essere, le abitudini, piccole e grandi, di tutti i giorni. Dalla posta elettronica ai social network fino ai servizi, semplici e complicati, offerti dalla rete, la nostra vita ruota intorno alla connessione e sembra non poterne più prescindere. Tra le tante cose che Internet ha radicalmente cambiato, c'è naturalmente il marketing. Società e aziende hanno dovuto cambiare le proprie strategie adeguandole a un nuovo modo di comunicare, più rapido e in grado di raggiungere una quantità di persone prima impensabile, e a un nuovo mercato, quello degli acquirenti online. Tra le nuove strategie di marketing affermatesi con Internet, avrete sicuramente sentito parlare del cosiddetto marketing virale. Non ha niente a che fare con l'influenza o pandemie varie. Si tratta di una sorta di evoluzione del passaparola. Inizialmente pochi utenti interessati a un prodotto o a un oggetto diffondono il messaggio, non sempre spontaneamente, e sfruttando la rapidità dei canali comunicativi di Internet, propagano le informazioni a un numero di soggetti esponenzialmente sempre più elevato. I fenomeni virali sul web non riguardano solo il marketing. Virale viene considerato tutto ciò che si propaga in maniera progressiva e continua fino a raggiungere proporzioni e dimensioni di massa, fino a diventare un fenomeno di portata mondiale. La nostra storia di oggi parte proprio da uno di questi fenomeni virali. Quando l'uomo nero va a dormire, ogni notte controlla il suo armadio per vedere se c'è Chuck Norris. Quello che avete sentito è un Chuck Norris fact. Si tratta di storielle umoristiche iperboliche che raccontano gesta impossibili e sovrumane che avrebbe compiuto durante la sua vita uno degli attori più duri di Hollywood, Walker Texas Ranger, ovvero Chuck Norris. Chuck Norris. I bambini hanno paura del buio. Il buio ha paura di Chuck Norris. La moda dei Chuck Norris Facts è iniziata nel 2005. Come tutti i fenomeni spontanei virali di Internet, non se ne conosce esattamente l'iniziatore né il momento preciso in cui questa tendenza sia nata. Ciò che si sa è che in quell'anno i numerosi canali IRC, la prima forma di comunicazione in chat sul web, hanno iniziato a diffondersi questi brevissimi, istantanei racconti su Norris. Milioni di utenti, coinvolti dall'umorismo nonsense fulminante, irriverente, surreale di alcuni di essi, ne hanno composti ogni giorno di nuovi. Sono presto nati siti interi dedicati alle eroiche gesta dell'attore, il quale, chiamato in causa, ha preso presto posizione su questo fenomeno. Migliaia e migliaia di persone scrivono da ogni parte del mondo. Credo ce ne siano circa 700-800 mila. So che anche le truppe americane in Iraq nel 2007 e nel 2008 hanno creato un proprio sito sul quale hanno caricato dei facts scritti da loro. Il mio preferito è: hanno tentato di scolpire il volto di Chuck Norris sul monte Rushmore, ma non ci sono riusciti perché la pietra non era abbastanza dura per fare la sua barba. Il primo che ho sentito invece fa così. Quando Chuck Norris fa le flessioni non solleva il suo corpo, spinge giù il mondo. Per Chuck Norris i facts sono indubbiamente un'attestazione di notorietà, anche se il personaggio del duro e macho che si è costruito negli anni viene messo decisamente alla berlina. Forse per questo motivo l'atteggiamento che l'attore tiene nei confronti di questo fenomeno di costume è ambivalente. Da un lato si mostra divertito e partecipe, dall'altro, quando queste freddure vengono raccolte in libro, forse con eccessiva preoccupazione, corre ai ripari, cercando di bloccarle o di far sparire il suo nome dalla copertina. Naturalmente, nell'era di Internet, ciò non può far altro che dare ancora maggiore visibilità ai Chuck Norris Facts. Non esiste nessuna teoria dell'evoluzione. Esiste solo un elenco di creature alle quali Chuck Norris permette di esistere. Questa battuta, in particolare, fa infuriare Norris, che si affanna a far pubblicare una sua precisazione, forse ancora più esilarante. La battuta è divertente, ma mi spinge a chiarire la mia posizione sulla teoria dell'evoluzione. No, non esiste alcuna teoria dell'evoluzione, ma solo un elenco di creature a cui il nostro buon Dio ha donato l'esistenza. Ma come è arrivato Chuck Norris a raggiungere una simile notorietà, a costruirsi una fama da duro tale da diventare oggetto di un così grande fenomeno popolare? Chuck Norris ha rapito gli alieni. Chuck nasce nel 1940 a Ryan, in Oklahoma. Sua madre è irlandese, suo padre è un Cherokee. Il vero nome di Norris è Carlos Ray Jr. Da bambino e da adolescente, Chuck è molto diverso da come siamo abituati a percepirlo oggi. Timido, magro, sgraziato, pessimo negli studi. A scuola era una sorta di emarginato. Molti problemi derivano dalla famiglia. Suo padre ha problemi di alcolismo e i suoi genitori presto divorziano. Il divorzio dei miei genitori fu un duro colpo. Conoscevo bene i problemi di mio padre, ma non provo rabbia nei suoi confronti, solo compassione. Era giusto così com'era, con tutte le sue mancanze. Chuck, che ha due fratelli maggiori, Wieland e Aaron, raggiunta la maggiore età, entra nella United States Air Force e diventa Air Policeman, poliziotto dell'aria, mestiere che lo spingerà fino alla base militare di Osan, in Corea del Sud. Qui accade qualcosa di determinante per la sua vita, per la sua personalità e il suo futuro. L'incontro con il Tang Soo Do. Il Tang Soo Do è un'arte marziale coreana, parente stretta del Taekwondo. Il nome Tang Soo Do significa via della mano cinese ed è un'arte nata durante l'occupazione giapponese della penisola coreana. Norris trova in essa una forma di riscatto e al tempo stesso di irrobustimento della propria personalità, che trova pace, compostezza e forza. Tornato negli States, Chuck, come ormai lo chiamano tutti, ha trovato la sua strada, le arti marziali. Chuck Norris diventa presto cintura nera di Tang Soo Do. Ci si dedica anima e corpo, con costanza, abnegazione e sacrificio. Delle arti marziali, Norris ama anche l'aspetto mentale, che lo aiuta a rinnovarsi completamente sul piano interiore. Le arti marziali per me sono state fondamentali, perché hanno trasformato un giovane insicuro, non atletico e tendenzialmente depresso in un uomo vincente. Chuck, all'inizio degli anni 60, arriva addirittura a elaborare una serie di teorie che confluiscono in una nuova arte marziale, la sua arte marziale, una disciplina nuova che fonde tra loro le principali con cui si era cimentato. La chiama Chun-Kuk Do, che significa via universale. Quest'arte consiste in una combinazione tra Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-Jitsu, lotta libera, Muay Thai, Karate Shotokan e alcune altre arti marziali. Norris fonda alcune scuole negli Stati Uniti e la disciplina inizia a diffondersi rapidamente in tutto il paese. Chuck stila anche una serie di regole che seguono quattro principi: disciplina, integrità, lealtà e rispetto. Le regole sono in tutto 12. Le più significative sono: dimenticherò gli errori del passato e farò pressione sulle ambizioni più grandi. Lavorerò continuamente per lo sviluppo dell'amore, felicità, lealtà nella mia famiglia e riconoscerò che altro successo non potrà compensare il fallimento nella mia casa. Se non ho niente di buono da dire riguardo a una persona, non dirò niente. Dedicherò così tanto tempo al miglioramento di me stesso che non avrò tempo per criticare gli altri. Manterrò rispetto per le autorità e manifesterò questo rispetto sempre. Rimarrò sempre leale a Dio, il mio paese, la famiglia e i miei amici. Rimarrò molto concentrato sui miei obiettivi in tutta la mia vita, perché questa attitudine positiva aiuti la mia famiglia, il mio paese e me stesso. Norris comprende a fondo quindi che le arti marziali possono essere una forma di riscatto sociale e una via per ritrovare se stessi. Per questo motivo, una volta congedatosi dall'aviazione, nel 1962, Chuck fa della divulgazione delle discipline marziali una vera e propria missione. Fonda la United Fighting Arts Federation, la prima vera federazione di arti marziali degli Stati Uniti. All'interno di essa avvia il lodevole programma Kickstart. Il programma Kickstart, che ho avviato negli anni 60 e che è tuttora attivo in alcuni stati americani, consisteva nel recupero di ragazzi difficili, borderline, sull'orlo della vita da strada, attraverso le arti marziali. È un progetto che ha avuto grandissimo successo, soprattutto perché ha permesso a molti ragazzi americani di allontanarsi dalla droga e da altre abitudini pericolose. Inoltre Norris apre una catena di scuole di arti marziali che riscuote grandissimi consensi e raccoglie migliaia di iscritti in tutto il paese. Anche nomi illustri frequentano le scuole di Norris. Steve McQueen, Bob Parker, Donny Osmond sono solo alcuni esempi delle star che corrono da Chuck ad allenare il proprio corpo. Sul finire degli anni 60, Norris, che nel frattempo è anche diventato cintura nera di karate, inizia a gareggiare nelle più importanti competizioni internazionali. Dopo 2 anni di risultati mediocri, il suo livello cresce fino a renderlo invincibile. Nomi come Joe Lewis, Skipper Mullins, Arnold Urquidez, Victor Moore, Ron Marcini, Steve Sanders cadono sotto i suoi colpi. Per 7 anni di seguito, Norris detiene il titolo mondiale di pesi medi di karate. Durante questo periodo Norris rimarrà imbattuto e imbattuto si ritirerà dalle competizioni nel 1976. Il suo record come karateka sarà di 183 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte. Un primato ancora difficile da superare. Nonostante questa incredibile carriera agonistica nelle arti marziali, nonostante l'incessante attività come promotore delle stesse discipline negli Stati Uniti, i Chuck Norris Facts non dipendono da questi brillanti risultati. Il grande successo internazionale e la fama da duro provengono dalla seconda carriera di Norris, che come spesso accade dipende da un incontro, in questo caso l'incontro con una leggenda. Facciamo un passo indietro. Siamo nel 1968 a New York. Chuck Norris affronta Steve Sanders per il titolo mondiale dei pesi medi di karate. Ospite d'onore del match, un giovane attore di origini asiatiche, decisamente esperto nelle arti marziali, protagonista di una serie televisiva che la ABC sta tentando di lanciare in quelle settimane. Si intitola Il Calabrone Verde. Quell'attore si chiama Bruce Lee. Bruce Lee. Beh, Bruce ed io ci siamo incontrati quando ho vinto il titolo mondiale di karate a New York, nel 1968. Lui era lì per promuovere la serie televisiva che stava girando. Era lì come ospite d'onore. Ci parlammo, ci fu una buona intesa. E così decidemmo di allenarci insieme. Ci allenammo a Los Angeles per un paio di anni. Poi lui tornò ad Hong Kong. Bruce Lee però non si dimentica di quello che è stato uno dei suoi allenatori a cavallo tra i 60 e i 70. Nel 1972 i due si rincontrano a Long Beach durante una dimostrazione internazionale. Qui Lee scopre che Chuck Norris, per via dell'amicizia con alcuni divi di Hollywood che frequentano le sue scuole di arti marziali, ha fatto la comparsa in alcuni film americani. Poco tempo dopo, Bruce Lee chiama Chuck Norris. Mi chiamò nel 1972 per dirmi: qui ad Hong Kong ho già girato 2 film. Sono stati successi straordinari. Il mercato è fertile, in fermento. Ti vorrei nel mio prossimo film. Sarai il mio antagonista. Io mi fermai un attimo e chiesi: e nel film chi vincerà, io o tu? Lui disse: ovvio io, sono io la star. Allora io ridendo gli dissi: beh, vuoi sconfiggere il campione del mondo almeno in un film? E lui rispose: no, voglio uccidere il campione del mondo. Il film è The Way of the Dragon, in italiano tradotto con L'urlo di Chen, terrorizza anche l'Occidente. In questo film, diventato un cult movie assoluto, Bruce Lee e Chuck Norris si affrontano in uno spettacolare quanto assolutamente improbabile combattimento a Roma, all'interno del Colosseo. Una scena indimenticabile. Fu fantastico. Perché quando andai a Roma per la scena del combattimento pesavo 168 libbre e Bruce 145. Il produttore ci guardò insieme e disse: non sembrate molto diversi come dimensioni, tu dovresti essere molto più grosso. Io risposi: cosa intendi dire? Puoi prendere peso? Mi chiese. Non l'avevo mai fatto prima ed ero in difficoltà perché avevo paura per la mia carriera d'atleta. Dopo un po' di riluttanza accettai. Ci proverò, dissi. Iniziai ad abbuffarmi di hamburger, a bere birra, ma siccome mi allenavo un sacco smaltivo tutto, dovetti smettere di colpo di allenarmi e bere come un pazzo. Così diventai grasso. Questo è il motivo per cui in quella scena non faccio nessun calcio volante. Non potevo, ero zavorrato a terra. Comunque fu una grandissima esperienza. Bruce era avanti anni luce rispetto a tutti gli altri e gli sarò sempre, sempre grato. Quel film del 1972 in realtà costituirà un cambio di rotta deciso e fondamentale per Chuck Norris e in qualche modo anche per Bruce Lee, di cui ricostruiremo tra poco la leggenda. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di Chuck Norris, attore americano ed ex campione del mondo di karate, e di Bruce Lee, la leggenda del cinema di Hong Kong, che nel 1972 lancia proprio la carriera di attore di Norris, scegliendolo come avversario nel film L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Il film racconta le vicende di Tang Lung, un campione di arti marziali di Hong Kong che giunge a Roma per proteggere il ristorante della nipote di un amico di famiglia dalla mafia locale. Norris appare nella parte del campione americano di arti marziali, ingaggiato dai malavitosi per contrastare Tang. Il combattimento finale tra Lee e Norris è uno degli scontri più celebri e spettacolari della storia del cinema. Due stili, due mondi si scontrano. Il karate professionale, preciso e pulito di Norris da un lato, e lo stile senza stile di Lee dall'altro, cocktail di un gran numero di discipline marziali. Lo scontro avviene al Colosseo, non nel centro dell'arena come Lee avrebbe voluto, perché il comune di Roma nega il permesso. Lee e Norris sembrano due gladiatori che con estrema grazia si fronteggiano fino alla morte. Io e Bruce ci siamo allenati insieme per molto tempo. Non abbiamo mai veramente combattuto in allenamento perché io ero un atleta professionista, lui no, anche se era straordinario. Bruce era una vera leggenda del cinema e delle arti marziali. La mia carriera di attore la devo sostanzialmente a lui. Chi è quindi Bruce Lee, la leggenda? Nel 1940, anno del dragone, secondo il calendario cinese, un attore cantonese, Lee Hoi Chun, si trova negli Stati Uniti per lavoro. Sua moglie Grace, di origini tedesche, è incinta. Il 27 novembre del 1940, nel quartiere cinese di San Francisco, viene al mondo Lee Yun Fan, che in cantonese significa «per tornare ancora». Omaggio agli Stati Uniti, paese che Hoi Chun e la moglie adoravano e nel quale speravano il loro figlio potesse tornare un giorno. Il medico americano che lo fa nascere gli dà il nome inglese Bruce, che lo accompagnerà per tutta la vita. Nel 1941 la famiglia, sempre per seguire gli impegni di lavoro del padre, si trasferisce a Hong Kong, dove l'industria cinematografica è la terza al mondo per numero di produzioni. Grazie al padre, quello che diventerà Bruce Lee esordisce al cinema già all'età di 5 anni in alcuni film cantonesi. Tra i 6 e i 14 anni Bruce interpreta quasi 20 film, alcuni dei quali accanto al padre. In altre parole, è già una star. Proprio come Chuck Norris, anche Bruce Lee, nella prima adolescenza, è tutt'altro che prestante e muscoloso. Fragile ed esile, è spesso bersaglio dei coetanei e dei compagni di scuola, talvolta invidiosi del suo successo cinematografico. All'età di 14 anni, Bruce Lee è coinvolto in una rissa in strada, nella quale ha la peggio. Da questo episodio nasce l'esigenza di Bruce Lee di imparare le arti marziali e di migliorare il proprio allenamento fisico. Il suo primo vero insegnante si chiama Sifu Yip Man, insegnante di Wing Chun, una disciplina orientale che prevede l'utilizzo di un bastone di legno come arma, strumento con cui Lee diventa presto abilissimo e rapidissimo. Bruce però decide di ampliare la propria conoscenza delle arti marziali, cimentandosi con discipline differenti per prendere da ognuna di loro qualcosa di importante, sia a livello fisico, sia a livello mentale. Il miglior combattente non è un pugile, un karateka o un judoka. Il miglior combattente è qualcuno che si può adattare a qualsiasi stile di combattimento. Un altro dei suoi insegnanti è Siu Hong Sung, maestro di Kung Fu. L'accordo con Siu è veramente singolare. Bruce Lee aveva imparato molto bene il cha-cha-cha e così offre al maestro uno scambio di lezioni. Lezioni di Kung Fu in cambio di lezioni di ballo. Il maestro accetta, ma ci perde. Non imparerà mai a ballare, mentre Bruce Lee diventerà abilissimo nel Kung Fu. A proposito di cha-cha-cha, nel 1958 Bruce diventa il campione in questa tipologia di ballo nello stato di Hong Kong. Un trofeo curioso e originale, che porta però a Lee il ruolo da protagonista in due film in cantonese, The Orphan e Thunderstorm. Curiosamente, gli unici due della sua carriera in cui non c'è nemmeno uno scontro fisico. Col passare del tempo, Bruce migliora in tutti i campi in cui si cimenta, ma le sue ragazzate nelle strade di Hong Kong non accennano a diminuire, anzi. Nei primi mesi del 1958, la polizia si presenta a casa sua e ammonisce sua madre Grace. Il figlio è stato di nuovo pizzicato in una rissa fra bande. Qualche mese dopo, il padre prende un provvedimento educativo drastico. $100 e un biglietto per una nave diretta a San Francisco. Lì potrà stemperare i suoi spiriti bollenti. Bruce parte senza battere ciglio e sulla nave arrotonda la mancia paterna dando lezione di cha-cha-cha ai passeggeri. Se poni sempre dei limiti a tutto ciò che fai, sul piano fisico o sul piano mentale, questo appesantirà il tuo lavoro e la tua vita. Non ci sono limiti, ci sono solo barriere e tu devi superarle. My name is Bruce Lee. A San Francisco, Bruce vive nel quartiere di Chinatown con Ruby Chow, amico del padre, titolare di un ristorante presso il quale Lee lavora come cameriere. Nella città californiana Lee frequenta un'ottima high school, proseguendo naturalmente gli allenamenti nelle arti marziali. Alle discipline orientali, Bruce affianca anche il pugilato per diventare un fighter completo. È come la danza o altri sport in cui si è richiesta un'abilità tecnica definita. Prima ti devi costruire una struttura solida e definita. Poi cerchi di demolirla, di smussarla, di devastarla per costruire un nuovo edificio, più imperfetto, ma in grado di far detonare tutta la tua potenza. Bruce si iscrive alla facoltà di filosofia, l'unica in grado di dargli qualcosa in più anche in vista della sua preparazione mentale nelle arti marziali. Nel 1959 fa amicizia con Taki Kimura, futuro attore e maestro di Kung Fu. Kimura, che aveva il doppio degli anni di Bruce, aveva subito per anni discriminazioni razziali. Lee gli trasmette la forza di esibire con orgoglio le proprie origini, liberandolo da un opprimente fardello e facendo di lui un compagno inseparabile nella futura carriera di attore. A Hong Kong, il Kung Fu era considerato una sorta di arma segreta cinese e non veniva insegnato ad alcun individuo che non avesse origini cinesi. Bruce Lee, invece, negli anni dell'università, inizia a insegnare il Kung Fu a chiunque voglia impararlo, dando di fatto un contributo fondamentale al superamento delle barriere razziali e al contatto tra la civiltà orientale e quella occidentale. Bruce impartisce ai suoi studenti anche straordinarie lezioni di vita, impregnate di misticismo orientale. Bisogna essere senza forma, come l'acqua. Se metti dell'acqua in una tazza, essa diviene la tazza. Se la metti in una bottiglia, diviene la bottiglia. L'acqua può fluire, oppure può distruggere. Sì, come l'acqua, amico mio. E ancora? Qui abbiamo l'istinto naturale e il controllo. Devi combinare i due elementi, poiché se hai il primo all'estremo non sarai scientifico. Se hai il secondo all'estremo, diverrai solo un uomo meccanico. Nel 1963 Bruce scrive un libro dal titolo Chinese Kung Fu, un manuale con descrizioni e disegni molto precisi. Nel 1964 inizia un tour dimostrativo delle sue incredibili qualità. A Long Beach esibisce per la prima volta le sue stupefacenti flessioni su due dita. Proprio durante questa esibizione, un produttore televisivo nota la sua sorprendente forza fisica e la sua presenza scenica. Lo scrittura per un provino per la serie televisiva Il Calabrone Verde, la serie che lo porterà a incrociare Chuck Norris. E il cerchio si chiude. Bruce Lee e Chuck Norris. Due leggende delle arti marziali, due attori che hanno fatto dei combattimenti corpo a corpo il loro marchio di fabbrica. Bruce Lee diventa una leggenda, costruendosi faticosamente e con disciplina un ruolo di primo piano nel cinema di Hong Kong prima e in quello americano poi. Norris, campione del mondo di karate, esordisce come attore proprio grazie a Lee, che lo vuole come suo avversario in L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Da questo film inizia per Norris la carriera che lo consacrerà come uno dei duri per antonomasia del cinema americano. Purtroppo le carriere di Chuck Norris e Bruce Lee non riescono ad avere uno sviluppo parallelo. Dopo il successo del film girato insieme, Norris non decide subito di dedicarsi interamente alla carriera di attore. È ancora campione del mondo di karate e ha decine di palestre sparse negli States che alimentano la sua carriera di istruttore. Lee, invece, viene finalmente cercato da uno studio americano, la Warner, per il suo primo ruolo da protagonista a Hollywood in un film intitolato I tre dell'Operazione Drago. Nel film, Lee viene coinvolto non solo come attore, bensì anche come coreografo. La storia è quella di un maestro di arti marziali del tempio Shaolin che viene reclutato per partecipare a un torneo di Kung Fu organizzato da un mafioso, cui un poliziotto americano sta dando la caccia. A detta degli appassionati del genere, il film è uno dei migliori mai girati sulle arti marziali. Durante le riprese, Lee ha un battibecco con uno stuntman, una cosa insolita per l'attore di Hong Kong. Lo ricorda l'attore Bob Wall. Lee fu infastidito e sfidato numerose volte da uno stuntman che lo punzecchiava con frasi avvilenti. Lee gli rispondeva che non gli interessava cosa pensasse di lui, ma un giorno era di pessimo umore. Lo stunt era più grosso di Bruce e cercava di colpirlo, di fargli male. Era in gamba, ma Bruce riusciva a schivare i colpi finché non aprì il fuoco. Lo scaraventò contro il muretto e gli fece sanguinare la bocca. Poi lo mise in condizioni di impossibilità a muoversi, mentre sembrò sussurrargli qualcosa del tipo «Occorre maggiore preparazione». Non solo da allora il tipo non infastidì più Bruce, ma lì non lo cacciò. Gli disse solo di tornarsene al suo posto. La data di uscita del film I tre dell'Operazione Drago è fissata per l'agosto del 1973. Purtroppo Bruce Lee non arriverà mai alla prima di quel film. Il 10 maggio 1973 Bruce ha un collasso negli studi Golden Harvest mentre collabora al doppiaggio dei tre dell'Operazione Drago. Colto da vomito, febbre altissima e violente convulsioni, viene immediatamente trasportato all'ospedale più vicino, dove gli diagnosticano un edema cerebrale. Gli viene somministrato prontamente del mannitol per ridurre il gonfiore al cervello. Bruce sopravvive. Il 20 luglio 1973, Bruce dovrebbe cenare in un ristorante con l'attore George Lazenby. Nel pomeriggio incontra il produttore Raymond Chow a casa per discutere riguardo a Game of Death, il film che Lee ha scritto e iniziato a girare anche come regista. I due si spostano poi a casa dell'attrice Betty Ting Pei. Giunta l'ora di cena, Lee dice di non sentirsi bene. Prende l'Equazegic, un potente analgesico ora proibito, e va a riposarsi in camera da letto. Chow va all'appuntamento per primo. Attenderà Lee direttamente al ristorante. Chow, non vedendo arrivare i due, telefona a Betty, che allarmata gli comunica di non riuscire a svegliare Lee. Chow si precipita nell'appartamento e chiama il proprio medico personale, che accorre affannosamente. Trascorre 10 minuti tentando di rianimarlo inutilmente. Viene immediatamente trasportato al Queen Elizabeth Hospital, ma non c'è più niente da fare. Non ci sono ferite esterne visibili, ma il suo cervello mostra i segni dell'edema acuto che lo ha ucciso nel sonno. Con soli 4 film all'attivo, 3 girati a Hong Kong, 1 a Hollywood, Bruce Lee scompare e diventa una leggenda destinata all'immortalità. Chuck Norris avrà per sempre un debito con Bruce Lee. La sua carriera cinematografica, infatti, decolla proprio da quella chance che l'amico gli aveva offerto. Qualche anno dopo, quando gli affari con la sua catena di palestre non sembrano andare più per il verso giusto, Norris accetta il suo primo ruolo da protagonista. Il film è Commando Black Tiger del 1978. Seguono grandi successi come Rombo di Tuono, Delta Force, The Octagon. In questi film Norris va formandosi quella fama da duro e macho che sarà il carburante per l'esplosione dei Chuck Norris Facts. I rubinetti in casa di Chuck Norris non perdono, vincono. A consacrare definitivamente Chuck Norris come attore inespressivo maduro è la serie TV Walker Texas Ranger. Oggi, grazie a questa serie e grazie al fenomeno virale dei Chuck Norris Facts, l'ex campione del mondo di karate è noto in tutto il mondo. La vera svolta di Chuck Norris è però senza dubbio l'incrocio della sua vita con la leggenda del grande Bruce Lee. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Altri destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.